bella, sembra una stella irraggiungibile. Non sai più che fare, resti sola a soffrire, sembri fragile. Tu va più là, che non sei senza amore, c'è chi uno che ti ama da morire e che ti dà con il suo cuore all'ore, non piacere, tu hai solo paura, paura d'amare, paura di restar sola, è improbabile. Questo mondo ci sarà, io ti amerò e più là. E va più là, che non sei senza amore, non butta giù le resime parole, che dico che sola tu vuoi restare. E poi non è che un gioco di parole, quello che c'è dentro di stella irraggiungibile. Ho voglia d'amarti, sento già di morire se non son lì con te. E va più là, che non hai amore, qualcuno che ti amerà da sempre, qualcuno che ti cerca tutta la stella irraggiungibile. Non sai più che fare e resti sola a soffrire, sembri fragile.